Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, un ben ritrovati da parte di Diego Manetti sulle frequenze di Radio Maria per questo consueto appuntamento mensile. Per quanti si interrogano su quello che sia il destino dell'uomo dopo la morte. Se fossimo partiti da questo punto, credo che tanti di voi avrebbero forse abbandonato l'impresa prima ancora di cominciarla. Nel senso che se non ci fossimo interrogati così a lungo come abbiamo fatto in questi mesi, giungendo quasi a metà del nostro percorso, su cosa sia la morte vista, potremmo dire, dall'aldilà, dall'uomo come pellegrino che avanza con fatica tra le difficoltà, le sofferenze, le inquietudini, le domande dell'esistenza terrena, e non avessimo poi esaminato anche il momento della morte come passaggio drammatico da una vita a qualcosa di radicalmente diverso. Ecco, se non avessimo lasciato affiorare questi interrogativi, se non ci fossimo lasciati illuminare dalla parola di Dio, dall'insegnamento della Chiesa, ma anche da quelle grandi domande che le menti più geniali della storia dell'umanità, attraverso la poesia, la letteratura, l'arte, hanno continuato a porsi, ecco, forse oggi guarderemo con una certa diffidenza le domande che riguardano l'oltre. In fondo, il titolo che ho voluto dare a quest'opera, a cui sono ancora così legato a distanza di alcuni anni dall'uscita, è proprio il cuore, ecco, a mio modo di vedere, della prospettiva dopo la morte, oltre. Vuol dire andare oltre gli inganni della quotidianità, vuol dire andare oltre le proprie paure, andare oltre il pensiero comune, la visione intramondana della vita. Vuol dire avere il coraggio di porsi quelle domande che oggi sempre più spesso vengono censurate e vuol dire interrogarsi su quelli che sono gli altri novissimi. Quando ho utilizzato questo termine le volte scorse vi ho detto che è un termine che si usa raramente. Quando parliamo dei novissimi intendiamo dire le realtà ultime che la Chiesa compendia in quattro punti fondamentali: la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. A un primo appello sembra escluso il purgatorio soltanto perché, lo vedremo, in realtà si intende il purgatorio come anticamera del paradiso, quindi citando il paradiso porta con sé anche questa realtà del purgatorio, appunto. Noi abbiamo speso quasi metà del cammino a parlare della morte, che è soltanto uno dei quattro novissimi. Perché abbiamo fatto questo? Perché terrà fuoco la domanda. Perché se voi fermaste, cari amici, un qualunque passante per la strada e chiedeste che cosa pensa della vita dell'anima dopo la morte, avreste già fatto perlomeno due errori nel porre la domanda. Il primo è il dare per scontato che il vostro interlocutore creda all'esistenza di un'anima, cioè concepisca l'uomo come qualcosa che va al di là della pura e semplice materia. E poi il secondo errore è che, ammettendo un'anima, sappia in che cosa questa consista. E prima di entrare nello specifico del tema di questa sera sul destino che attende l'anima dopo la morte, mi viene proprio da riferire un aneddoto che così mi è capitato di sentire, no? Di recente, durante un colloquio di un esame di maturità con il candidato che si presenta con un argomento particolare incentrato sul personalismo, sulla dignità dell'uomo, della persona umana, quindi direi niente di così controverso per l'intera commissione, ma a un certo punto si trova a presentare la differenza che esiste tra l'uomo e l'animale. E a far presente come, anche seguendo la lezione di Aristotele, poi ripresa da San Tommaso, si può ammettere e si deve ammettere un'anima vegetativa, un'anima sensitiva nell'animale. L'animale vive, si nutre, si riproduce, si muove, sente, nel senso che percepisce ciò che è fuori di sé, anche ciò che è dentro di sé. L'animale soffre, l'animale si può sentire a suo agio in un certo habitat. Ma poi quando guardiamo all'uomo dobbiamo ammettere una funzione dell'anima che che l'animale non possiede. E Aristotele dice che questa è l'anima razionale, quella che Tommaso chiama l'anima spirituale. Abbiamo cercato di spiegare l'esistenza di questa ulteriore dimensione dell'uomo proprio in tutto il cammino che ci ha portati a interrogarci su quello che ci aspetta dopo la morte, perché se nell'uomo non c'è un'anima razionale e spirituale, non ha neppure senso chiedersi cosa c'è dopo la morte, perché se siamo fatti di materia, è evidente che con la fine della nostra vita materiale si dissolve l'intera persona. E questo candidato, esponendo la sua tesi sul personalismo, si è trovato a fronteggiare sguardi perplessi, interrogativi da parte dei docenti, che quasi trasecolavano al sentirsi dire che c'è una differenza fondamentale tra uomini e animali, che gli animali non hanno l'anima spirituale come gli uomini, che l'animale non ha la libertà, la volontà, l'intelligenza discorsiva che invece l'uomo possiede. Ora immaginate se questo dubbio, questa perplessità può nascere in un docente di scuola superiore, cosa è dell'uomo comune? Ma qui non è un problema, cari amici, di studio o di cultura nel senso accademico del termine, voglio essere chiaro, qui è un problema, di cultura antropologica, cioè che cosa conosci dell'uomo? E non mi venite a dire che è una questione secondaria, perché vuol dire conoscere la verità di se stessi. È fondamentale avere una corretta visione antropologica per riuscire ad avere una corretta prospettiva teologica. È fondamentale, decisivo, sapere che cosa è della vita terrena dell'uomo realmente per potersi interrogare in maniera corretta e veritiera sulla sua prospettiva ultraterrena. Ecco perché è fondamentale aver fatto questo percorso, per alcuni versi magari un po' più difficile, magari in alcuni aspetti anche un po' arido, relativo all'antropologia e all'uomo come un essere a due dimensioni, corpo e anima. Ed ecco che allora, proprio partendo da una frase che io ho messo in antiporta in questo libro al principio del percorso, che adesso mi viene da riproporre, è il versetto 25 del capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù dice: Io sono la resurrezione e la vita. È il famoso capitolo della resurrezione di Lazzaro, o meglio, Lazzaro che viene resuscitato. Chi crede in me, dice Gesù, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Ecco, potremmo dire che questa domanda che veniva rivolta prima a Marta e poi a Maria, le sorelle di Lazzaro, questa sera viene rivolta a noi. Viene rivolta a noi in questo momento che di fronte alla prospettiva della morte, se diciamo di avere fede, beh, dobbiamo interrogarci per capire quale tipo di risposta potremmo dare. Allora entriamo nel vivo proprio di questo tema del destino che attende le anime dopo la morte. E dobbiamo subito dire che dopo il giudizio particolare, quel giudizio che riguarda ogni singola anima, immediatamente dopo la propria morte, le anime vengono destinate immediatamente alla condizione che hanno meritato. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1022, lo dice chiaramente, lo cito: ogni uomo, fin dal momento della sua morte, quindi l'immediatezza è ribadita. Ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna. In un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo. Ecco, diciamo che la retribuzione si riceve in questo giudizio particolare, verrebbe a dire brevissimo e istantaneo, che pone l'anima dinanzi a Cristo. E questo è bello perché si conferma che Gesù è il giudice. È Gesù perché è vero Dio e vero uomo, quindi, come già abbiamo detto, essendo Dio ha titolo a giudicare ed essendo uomo ha titolo a giudicare gli uomini, perché avendone assunta la natura, potremmo dire, conosce l'uomo meglio di quanto l'uomo non conosca se stesso. Per cui passerà attraverso una purificazione quest'anima, o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Qui è chiaro che si parla di retribuzione eterna e poi anche di purgatorio, che sappiamo bene essere temporaneo, perché lo si intende assorbito nella prospettiva salvifica. Potremmo dire che immediatamente dopo la morte, ogni anima nel giudizio particolare può essere destinata al purgatorio, appunto la purificazione, il paradiso, la beatitudine del cielo, oppure l'inferno, no? Quando il catechismo dice si dannerà per sempre. È evidente che il purgatorio nella sua temporaneità è aperto però alla eternità salvifica a cui preparano appunto il paradiso. E anche la Madonna a Medjugorje ha ribadito questa triplice possibilità di giudizio sulla vita individuale subito dopo la morte e il messaggio del 2 novembre 1983. La maggior parte degli uomini, dice la Regina della Pace, quando muore va in purgatorio. Un numero pure molto grande va all'inferno. Soltanto un piccolo numero di anime va direttamente in paradiso. Vi conviene rinunciare a tutto pur di essere portati direttamente in paradiso al momento della vostra morte. Anzitutto mi colpisce il fatto che questo messaggio è dato il 2 di novembre. Sappiamo che in questo giorno la tradizione ci porta a commemorare i nostri defunti. Il 1 novembre ricordiamo tutti i santi, che poi sono le anime anche di coloro che sono già nella gloria di Dio, il 2 novembre i defunti, cioè le anime che sono in purgatorio. La Chiesa in maniera molto salutare ci aiuta così a fare memoria di quello che è il nostro destino eterno. Mi colpisce perché quante volte abbiamo fatto visita nei cimiteri alle tombe che custodiscono le spoglie dei nostri cari e abbiamo visto tante persone che si affannano a pulire lapidi, lucidare pietre, spolverare vasi con fiori di plastica o mettere fiori freschi. E poi, che ne è delle domande più profonde, a parte queste cerimonie da cimitero che si svolgono solitamente in quei pochi giorni dell'anno? Ben inteso, ben venga che qualcuno almeno una volta all'anno si ricordi dei propri defunti e anche magari soltanto portando dei fiori ne onori la memoria. Ma forse più che voltarsi indietro, il cimitero dovrebbe essere l'occasione per guardare avanti. Mi ha sempre colpito nel cimitero del paese dove sono cresciuto da bambino, Mirabello Monferrato, perché all'ingresso c'è una scritta in latino che dice così: Resurrecturis, a coloro che risorgeranno. La cosa interessante è che quel cimitero è dedicato a coloro che risorgeranno, cioè è dedicato a quei corpi mortali che un giorno prenderanno vita alla fine dei tempi e che si riuniranno alle anime immortali, restituendo alla persona la sua unità per l'eternità che avrà meritato, appunto, il paradiso oppure l'inferno. Ecco, quindi primo motivo di riflessione, un messaggio del genere ci obbliga a dire in quel 2 novembre che possiamo vivere in ogni anno della nostra vita, non fermarti alla tomba, al cimitero o ai fiori, ma punta verso il destino eterno che attende la tua anima. E poi c'è una sorta di statistica, ecco, dell'uscita delle anime da questa vita mortale che è molto interessante, perché la Madonna dice la maggior parte vanno in purgatorio, un numero molto grande va all'inferno, pochissimi in paradiso. Allora, sul numero grande all'inferno non pensiamo che sia una particolarità dei messaggi di Medjugorje. In realtà, se conosciamo i messaggi anche di altre apparizioni mariane, sappiamo bene che la realtà dell'inferno è testimoniata anche altrove. Chiaro, mi direte, basta leggere il Vangelo per convincersi in abbondanza, sicuramente, però se la Madonna in tante delle sue apparizioni mariane moderne ha voluto ritornare sul tema dell'inferno, forse perché tutti così convinti non sono. E salutare e parlare dell'inferno? Io credo di sì, mi vengono sempre in mente le parole di Giacinta, la piccola pastorella di Fatima, che diceva: Lucia, mi raccomando, chiedi alla Madonna che faccia vedere l'inferno a tutti i peccatori. E quando Lucia diceva: ma perché? Abbiamo avuto noi questa visione, era la prima parte del segreto di Fatima, ed è stato qualcosa di tremendo. Questo mare di fuoco in cui ribollivano come tizzoni neri, i dannati e i demoni, in maniera mostruosa, bestiale, trasfigurati dal peccato e dal male che ormai si era radicato permanentemente in loro, visto che avevano rifiutato irrevocabilmente la misericordia di Dio. Perché far vedere uno spettacolo così tremendo? Chiedeva Lucia a Giacinta, e Giacinta rispondeva con molto candore, perché se vedessero l'inferno i peccatori non peccherebbero più. E a questa verità accompagno anche la bellezza e la grandezza del monito di Maria, che dice ai tre pastorelli, io vi chiedo preghiere e sacrifici, perché dirà nell'apparizione di agosto, perché ci sono molte anime che vanno all'inferno perché non c'è chi sacrifichi e preghi per loro. E questo è molto interessante perché ci fa capire come in fondo la preoccupazione della Madonna non fosse di mostrare l'inferno per incutere paura, figuriamoci se insomma non poteva far vedere l'inferno dei bambini per spaventarli, perché è una madre sa benissimo che cosa può spaventare maggiormente un bambino, ma voleva ammonire quei piccoli veggenti sul messaggio che avrebbero dovuto consegnare all'umanità intera. Stare in guardia perché il destino eterno dell'anima non è segnato verso una semplice sopravvivenza, non è che semplicemente si vive per sempre in maniera indifferente, ma ci sono destini diversi, destini di vita eterna, destini di morte eterna, destini di salvezza, destini di perdizione. Un numero molto grande di anime va all'inferno. Chissà se potremmo mai sapere quante anime vanno all'inferno, a volte. Mi viene da pensare che se ci fossero dei parallelismi tra le anime dei dannati e gli angeli che hanno scelto di seguire Lucifero e di ribellarsi a Dio, beh, in quel capitolo 12 dell'Apocalisse, dove si presenta la grande visione della donna vestita di sole che si oppone al dragone infernale, si dice che il dragone infernale, sconfitto da San Michele Arcangelo, viene precipitato sulla terra, ma trascina giù con la coda un terzo delle stelle del cielo. E sappiamo che, nel senso biblico, le luci che vengono create al principio, lo leggiamo nella Genesi, sono il simbolo, il rimando alle creature angeliche, agli angeli. È un po' come dire che Lucifero è stato capace di corrompere, di portare dietro a sé un terzo degli angeli ribelli. Se una simile percentuale interessasse anche gli uomini, se un terzo degli uomini dovesse perdersi, sedotta dal maligno, fuorviata dai suoi inganni, beh, potremmo dire che ha ragione la Madonna a dire un numero molto grande va all'inferno. Però c'è una buona notizia. La maggior parte delle anime va in purgatorio, poiché il purgatorio è uno stato di salvezza non ancora perfetta, non ancora compiuta, ma è l'anticamera del paradiso, e il messaggio penso che vada letto anche nel senso migliore del termine. È come se dicesse la Madonna: guardate che la maggior parte delle anime si salvano. E poi dice che sono veramente pochi quelli che vanno direttamente in paradiso, ecco, non è difficile crederlo, questo mi fa anche pensare come una delle grazie più belle che si possono chiedere, ben accompagnati e ben preparati dal proprio padre spirituale, sia quella di fare il purgatorio in vita, perché questo permette di, come si può dire, accedere direttamente al paradiso una volta morti. Possiamo anche ricordare, che il desiderio del martirio in tanti santi era animato dalla certezza che si poteva andare direttamente in paradiso col martirio cruento, il martirio della testimonianza in difesa della fede fino all'effusione del sangue. E poi possiamo ancora ricordare che proprio in questo messaggio che vi ho citato del 2 novembre 1983 la Madonna ci dice indirettamente quanto è bello il paradiso, perché conclude dicendo: vi conviene rinunciare a tutto pur di essere portati direttamente in paradiso al momento della vostra morte. E questo non vuol dire soltanto il purgatorio è talmente brutto che è meglio evitarlo in maniera assoluta, ma dice anche: guarda che il paradiso è talmente bello che sarebbe un peccato rimandarne il godimento. Ma cominciamo quindi con il purgatorio, ecco la prima condizione salvifica ma non perfetta. E la definizione che viene data nel cosiddetto catechismo di San Pio X è questa: il purgatorio è il patimento temporaneo della privazione di Dio e di altre pene che tolgono dall'anima ogni resto di peccato per renderla degna di vedere Dio. Questa definizione viene poi ampliata dal Catechismo della Chiesa Cattolica che al numero 1030 così dice: Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, a una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. Quindi diciamo che da una parte si parla di purificazione, dall'altra di patimento temporaneo, si punta più nel Catechismo di San Pio X sul senso della sofferenza, perché comunque il purgatorio è l'attesa di vedere Dio. E noi quando bramiamo ardentemente di vedere una persona che non vediamo da tanto tempo, evidentemente sappiamo bene cosa vuol dire soffrire anche solo per dilazionare di un po' di tempo questo incontro. Da quanto detto dal Catechismo emerge chiaramente che il purgatorio è ben diverso dall'inferno, perché mentre l'inferno è una situazione di eterna dannazione, il purgatorio è una condizione temporanea e di salvezza. Quindi ci sono due punti in cui si oppongono clamorosamente il purgatorio e l'inferno, così radicali che non si può dire che il purgatorio è intermedio tra l'inferno e il paradiso, assolutamente, perché se ci si entra in purgatorio, lo si fa solo per uscire verso il paradiso, ecco, non è che dal purgatorio si vada poi all'inferno. La differenza riguarda la dimensione temporale, ma anche la dimensione salvifica, perché dal punto di vista temporale, lo ripeto, il purgatorio è temporaneo, mentre il paradiso è eterno. E da questo punto di vista il purgatorio si differenzia sicuramente sia dal paradiso e sia dall'inferno, perché l'eternità del paradiso e dell'inferno stride appunto con la temporaneità, con la durata precisa appunto del purgatorio. Ma l'altro punto di diversità molto più importante, che ci permette di opporre il purgatorio all'inferno e di avvicinare invece sostanzialmente il purgatorio al paradiso, riguarda proprio l'aspetto salvifico, perché è una situazione di salvezza, come il paradiso, all'opposto invece dell'inferno, che è una situazione di dannazione. Ora, perché si deve fare il purgatorio, no? Diciamolo così, perché rimangono nell'anima delle imperfezioni, possiamo chiamarle delle macchie di peccato, che vanno purificate, delle radici di vizi e di cattive inclinazioni che devono essere estirpate, e magari delle pene temporali che devono ancora essere assolte. E queste imperfezioni devono essere eliminate. Prima di accedere alla visione beatifica di Dio, occorre che l'anima sia perfettamente immacolata. Io immagino l'obiezione di qualcuno di quelli che sono all'ascolto, ma se Dio è tanto misericordioso, perché non permette all'anima di accedere immediatamente al paradiso comunque? Non è forse un castigo troppo severo questa attesa che tormenta di fatto le anime tanto desiderose di poter finalmente incontrare Dio, di unirsi al loro creatore? Ecco, le cose non stanno così. Se si pensa che oltre alla giustizia divina, che richiede questo tempo di purificazione, un'importante ragione per cui un'anima che è imperfettamente purificata non può accedere alla visione beatifica di Dio è che quella stessa anima non lo vuole. Non lo vuole perché capisce lei stessa di non essere pronta. E qui faccio riferimento allora a un'opera sulla quale ho passato un po' di tempo perché ha rappresentato il testo di studio per la laurea triennale in scienze religiose ormai diversi anni fa. E l'opera era il Trattato del Purgatorio di Santa Caterina da Genova, al secolo Caterina Fieschi Adorno, che vive nella seconda metà del 400. E in questo breve trattato del Purgatorio emerge proprio la duplice motivazione della necessità del Purgatorio stesso. Le anime del Purgatorio, scrive Santa Caterina da Genova, non possono avere altra scelta che essere lì. Ciò avviene per disposizione di Dio, che ha operato con giustizia. I purganti sono così felici di appartenere al piano di Dio che non hanno pensieri per se stessi, vedono solo tanta bontà e e l'opera di Dio che, pieno di misericordia, conduce l'uomo a sé. Quindi le anime del purgatorio non hanno altra scelta, perché la purificazione è richiesta dalla volontà di Dio, per ragioni di giustizia, ma anche perché è voluta dalle anime stesse che desiderano conformarsi appieno al volere di Dio. Nel purgatorio le anime sono ormai nella carità, anche se non sono ancora ammesse alla visione beatifica di Dio e dunque non possono più divergere dalla volontà del Signore. Dice ancora Santa Caterina, le anime sono nella carità e non possono deviare da essa con una mancanza volontaria. Non sono più in grado di volere altro se non esclusivamente il volere puro della carità pura. E per questo atto di volontà delle anime si crea una paradossale unione, scusate, tra la gioia di fare quanto piace a Dio e il dolore di essere ancora separate da Lui. Potremmo dire che il purgatorio per un certo aspetto è un anticipo di paradiso, perché se ripensiamo a come si può dire, alla conclusione, no? Della Divina Commedia, quando Piccardo Donati dice in fondo che nella volontà di Dio è la nostra pace. E chi è beato, chi è in paradiso, è contento di dove si trova, di come si trova, perché dice quello che Dio ha voluto lo vogliamo anche noi, perché la pace e la gioia in noi è proprio quello di conformarsi perfettamente alla volontà di Dio. Possiamo dire che questa sorta di gioia la provano ovviamente in maniera molto ridotta, ma anche le anime del purgatorio, perché capiscono che stanno facendo quello che Dio desidera. Ma dall'altra a questa gioia si unisce anche un profondo dolore, perché nel purgatorio l'anima è separata da Dio. La meta del suo desiderio è ancora di là da venire, tanto che Caterina scrive. Per ciò che concerne la loro volontà, le anime non possono mai dire che quelle siano pene. Gioiscono nella disposizione divina, cioè nella volontà di Dio, con la quale è unita la loro volontà nella pura carità. Questa unione della volontà dell'anima purgante con la volontà di Dio è un anticipo relativo del paradiso. Prosegue, ma contrariamente alla gioia della volontà in tal modo unita, subiscono una pena così atroce che lingua non può parlarne, né intelletto può capirne una minima scintilla se Dio non glielo mostrasse per grazia speciale. Dio mi ha mostrato questa scintilla per sua grazia, ma non mi è possibile esprimerla a parole. È bello che Caterina riconosca con umiltà che ha ricevuto un dono grandissimo, cioè Dio le ha fatto intuire quanto profondo sia il dolore dell'anima in purgatorio. Questa non è una realtà da prendere sotto gamba, da considerare con leggerezza, no? Quante volte mi è capitato di parlare con qualcuno del destino eterno dell'anima e sentirmi dire, vabbè, mi farò un po' di purgatorio, come se fosse andare dal dottore a prendere un'aspirina. No, è una realtà difficile da comprendere, ma è una realtà inaccettabile se solo ci soffermiamo un secondo a considerare che se il paradiso è l'unione intima con Dio, il purgatorio non è ancora paradiso. Non è un po' meno di paradiso, è proprio un non paradiso. È ancora una separazione, ancora una distanza, ancora una mancanza e quindi non può essere felicità per l'anima. Anzi, proprio perché quell'amore eterno che aspettava fin dal principio l'anima non si congiunge ancora all'anima del purgatorio, si prova un dolore così atroce che Caterina ha avuto bisogno della grazia di Dio per cogliere la profondità di questo dolore. E Caterina dice a parole: non so comunque esprimerla. Un ultimo esempio per chiarire il fatto che l'anima può volere ciò che non vorrebbe, cioè può desiderare il purgatorio. Può desiderare di stare lontana da Dio anche se in realtà vorrebbe unirsi a Lui. Il cuore desidera unirsi a Dio, ma l'esigenza di conformarsi alla volontà di Dio stesso, l'esigenza di rispettare la giustizia di Dio, impongono il desiderio di segno opposto, di aspettare. È un esempio che può aiutarci a capire questo. Così compenetrarsi di opposti desideri, questa coesistenza di gioia e di dolore, potrebbe essere quello di una sposa che il giorno delle nozze, mentre in casa, sposata si sta preparando per recarsi in chiesa dove già l'attende il promesso sposo. All'improvviso, mentre sta compiendo le ultime operazioni e gli ultimi preparativi, urta una tazza di caffè che è rimasta appoggiata sul bordo del tavolo, si macchia il vestito. Ecco, immaginate la scena, una tragedia. È già tardi, lo sposo e gli invitati attendono e lei si trova con l'abito bianco che è macchiato da un'orribile macchia di caffè. Una sola macchia, ma è sufficiente a deturpare il candore dell'abito. E cosa si fa adesso? E voi pensate forse che la sposa, incurante dell'incidente, andrà in chiesa come se nulla fosse per non far attendere gli invitati e soprattutto desiderosa di incontrare lo sposo? Ma niente affatto. Proprio perché l'incontro con lo sposo deve avvenire in maniera perfetta, preferirà ritardare ancora un po' l'inizio della cerimonia, con buona pace degli invitati, ma soprattutto posticipando la sua stessa l'abito nuziale e presentarsi in chiesa bella e immacolata. Ecco, la stessa cosa accade alle anime. Anche se l'anima desidera incontrare lo sposo, che è il Signore, preferisce attendere e soffrire per purificarsi e prepararsi bene a quel momento. È chiaro che questa, come si può dire, attesa vale solo per chi abbia davvero Dio come prima meta. Io credo che quando noi consideriamo la prospettiva del paradiso soltanto dal punto di vista umano, cioè come l'occasione di ritrovare ad esempio i nostri cari, non riusciamo a capire cosa sia la pena del purgatorio. Ma quando invece consideriamo il paradiso come l'opportunità finalmente di vedere Dio faccia a faccia, come scrive San Giovanni, allora immaginiamo quale dolore sia il dover attendere prima di poterlo incontrare. Ora, chiediamoci quale possa essere la pena del purgatorio. Qui, per fare ancora una volta un riferimento che sia preciso, dobbiamo andare a leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare il numero 1031. E qui troviamo una sintesi mirabile di quello che è l'insegnamento della Sacra Scrittura e anche della tradizione. La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati. Quindi la prima cosa che fa il catechismo è spiegare che il purgatorio è una cosa e l'inferno è un'altra. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio soprattutto nei concili di Firenze e di Trento, quindi siamo con Trento a metà del Cinquecento. La tradizione della Chiesa, rifacendosi a certi passi della scrittura, parla di un fuoco purificatore. Per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c'è, prima del giudizio, un fuoco purificatore. Infatti, colui che è la verità afferma che se qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Da questa affermazione si deduce, conclude il Catechismo, che certe colpe possono essere rimesse in questo secolo, ma certe altre nel secolo futuro. Ecco, il fatto che si parli di fuoco potrebbe far credere che il purgatorio sia simile all'inferno e, per evitare simili confusioni, l'articolo specifica, come già ho rilevato fin dal suo esordio, quanto osservato, il purgatorio è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati. E allora perché si parla di fuoco? Perché parlare di un segno sensibile come il fuoco ci porta a comprendere meglio in cosa consiste la pena del purgatorio. È fondamentale perché se nel purgatorio c'è la gioia di sapere che ci salvi, magari non mi interrogo neanche più di tanto su questa gioia. Immagino che sia un po' meno della gioia del paradiso, vedremo che in realtà è una differenza sostanziale, ecco, non soltanto di grado. Dall'altra possiamo dire che bisogna invece interrogarsi sul dolore che si prova in purgatorio e quindi chiedersi ma quale tipo di pena soffrono le anime purganti? E qui lo possiamo capire rileggendo ancora un passaggio del Trattato del Purgatorio di Santa Caterina da Genova, che a un certo punto scrive: la pena delle anime nel purgatorio consiste proprio nel vedere ciò che Dio mostra loro nella sua luce e di esserne attratte, senza però poter seguire quella seduzione, quello slancio unitivo che il Signore ha dato loro per legarle a sé, la percezione di quanto sia gravoso quell'impedimento e l'istinto che l'anima ha di poter essere attratta da quello sguardo senza impedimenti costituiscono la sofferenza dei purganti. Ecco, la pena delle anime del purgatorio è dunque costituita dalla sofferenza di desiderare nel profondo quanto ancora non si può raggiungere, è come un anelito inappagato che è suscitato dall'amore di Dio che si riverbera nelle anime sotto forma di un fuoco purificatore. Proprio così si esprime ancora Santa Caterina nel suo Trattato del Purgatorio. Vedo ancora che dall'amore divino si dipartono verso l'anima raggi e lampi così colmi di fuoco, penetranti e forti. Dio che, come se Dio abbagliasse con la sua luce le anime, non si mostra, perché la visione beatifica di Dio è propria del paradiso, ma è come se lanciasse uno sguardo su quest'anima con l'intento di attirarla a sé, e quest'anima sa di non poter seguire questa seduzione d'amore, così la chiama Santa Caterina. I raggi, dice la santa, compiono nell'anima due operazioni: la sua purificazione e il suo annullamento. Come succede all'oro? Quanto più lo si fonde, tanto più diventa puro. E se si continuasse a fonderlo, ogni imperfezione verrebbe annullata. Ciò accade con il fuoco divino dell'anima. Mentre Dio la tiene nel fuoco, lei consuma ogni sua mancanza e va verso la perfezione dei 24 carati. Quindi il fuoco, che non è il fuoco dell'inferno, poi lo vedremo parlando a suo tempo della dannazione eterna delle anime, è un fuoco che esprime l'amore di Dio, ma un amore che purifica e perfeziona l'anima in vista dell'ingresso in paradiso. Ora, se possiamo dire di aver compreso l'essenza del purgatorio, quella che è la sua pena, possiamo chiederci: ma qual è la base dottrinale su cui si fonda questo insegnamento della Chiesa Cattolica? Questa domanda nasce soprattutto dal confronto con quanti ammettono paradiso e inferno, ma rifiutano il purgatorio, come ad esempio i cristiani separati delle chiese protestanti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1032, afferma che il primo fondamento di questo insegnamento, cioè della fede nel purgatorio, sta nella pratica di pregare per i defunti, di cui parla la Sacra Scrittura. Certo che se ci fosse soltanto il paradiso o l'inferno, non avrebbe senso pregare per le anime dei defunti. Se c'è l'inferno, ormai l'anima è dannata per sempre, le preghiere non servono. Se è già in paradiso, l'anima è beata per sempre e le preghiere ugualmente non servono. Ma se preghiamo per i defunti è perché c'è uno stato in cui le anime possono essere beneficate da questa preghiera. E l'episodio più importante lo troviamo nel secondo libro dei Maccabei, siamo nell'Antico Testamento, in particolare capitolo 12, versetti 40 e 45. Le tribù di Israele hanno appena riportato una vittoria molto importante contro il loro nemico, quando il loro capo Giuda Maccabeo trova negli abiti di alcuni soldati che sono caduti combattendo valorosamente sul campo di battaglia, trova negli abiti di questi soldati morti in battaglia alcuni oggetti idolatrici pagani. Dice la scrittura: trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli idoli di Yamnia, che la legge proibisce ai giudei. È un po' come se uno avesse un talismano, ai giorni nostri. Così fu a tutti chiaro il motivo per cui costoro erano caduti. Questo è un passaggio importante, eh? Avevano dei talismani in tasca, non si erano fidati di Dio, allora Dio fa vincere sì l'esercito di Israele, ma questi soldati, preda di superstizione, di sacrilegio, sono morti in battaglia. Perciò tutti, prosegue il secondo libro dei Maccabei, capitolo 12, benedicendo Dio, giusto giudice che rende palesi le cose occulte, perché era venuto fuori davanti a tutti, no? Questo inganno. Si misero a pregare, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Ora, è chiaro che si tratta di persone che hanno perso la vita combattendo per difendere il popolo eletto di Dio, ma è altresì vero che in battaglia, come detto, hanno fatto ricorso a pratiche superstizione, a divinità pagane, hanno dimostrato di non confidare a sufficienza in Yahweh, l'unico Signore. E si tratta di un peccato grave, tanto che l'autore sacro, non ha paura di indicarlo come la vera causa della loro morte in battaglia. Si capì perché erano caduti. Un peccato grave ma non imperdonabile, al punto che non si esita a offrire sacrifici di espiazione in loro favore, affinché quelle anime siano purificate da quello che impedisce loro di vedere Dio. È chiaro che se si fosse trattato di un peccato irremissibile, imperdonabile, non avrebbe avuto nessun significato pregare e intercedere per le anime di quei defunti. Se in questo brano non si parla esplicitamente di purgatorio, alla necessità di una purificazione post mortem fa però chiaramente riferimento la pratica del suffragio per i defunti. Magari non si dice chiaramente in questo brano, ed è vero che c'è un purgatorio, può pregare dopo la morte per queste anime, quindi non sono ancora in paradiso. E questa pratica doveva essere di uso abbastanza comune se in questo libro dei Maccabei che appartiene all'Antico Testamento l'autore non si diffonde a descriverla in dettaglio, non spiega con precisione quali preghiere vengono fatte, quali sacrifici vengono offerti, come se potesse immaginare che il lettore ben conoscesse quella pratica, quindi doveva essere una cosa comune. Per quanto concerne invece il Nuovo Testamento, quindi dopo l'avvento di Gesù, il brano a cui si fa di solito riferimento per fondare la dottrina del purgatorio è tratto dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, precisamente il capitolo 3, dai versetti 10 al 15. L'Apostolo delle genti si presenta come colui che, come un saggio architetto, ha posto il fondamento della vita spirituale dei suoi fedeli. A ciascuno, dice poi, spetta il compito di edificare su questa base. Come dire, io vi ho formati, vi ho messo Cristo come pietra angolare, poi dovete voi costruire badando bene di non mutare il fondamento che è Cristo Gesù. E scrive San Paolo: se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno la farà conoscere perché col fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito, tuttavia si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Questo è un brano molto importante perché fonda biblicamente la dottrina della purificazione delle anime, del purgatorio. Una volta posto il fondamento che è Cristo, al singolo fedele spetta di impegnarsi per costruire la propria vita come edificio spirituale e tempio di Dio. Se ci si attiene al Vangelo ricevuto, allora si costruisce la vita cristiana, come se si costruisse con oro, con argento o pietre preziose, cioè i materiali che solitamente erano edificati erano destinati agli edifici sacri. Se ci si allontana dalla verità, aderendo a dottrine false o mondane, beh, allora la costruzione sarà più fragile e misera. Potrebbe essere fatta di legno, di fieno o di paglia, dunque con materiali poveri e scarsamente resistenti, al punto che basta un po' di fuoco per eliminare l'intero edificio. Però non è un fuoco distruttore o annientatore in senso assoluto, tanto che Paolo precisa che a questo fuoco corrisponde sì una punizione, ma non la dannazione. Egli si salverà, dice, però quasi passando attraverso il fuoco. Così leggiamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 15. Ancora una volta torna l'elemento del fuoco che mi è visto caratteristico, non soltanto nella metafora, ecco, dell'edificio costruito sul fondamento che è Cristo, ma anche in relazione alla purificazione dell'anima dopo la morte. È evidente che questo fuoco saggia la consistenza della vita che si è costruita su Cristo, e potremmo dire che se si costruisce su Cristo ci si salva. Poi coloro che hanno costruito con materiali preziosi, quindi una vita di santità, ecco, adamantina, saranno salvi per andare immediatamente nella gloria di Dio. Coloro che hanno invece impiegato alcuni materiali più fragili, per una vita fatta anche di cadute e di peccati, beh, accogliendo la divina misericordia ci salveranno, ma avranno bisogno di essere purificati da questo fuoco che svela, ecco, la consistenza della vita e fa capire come l'anima ha bisogno di questo momento di purificazione che la prepara per accedere alla gloria della visione beatifica di Dio, momento di purificazione che appunto il purgatorio come stato che la giustizia di Dio esige, ma anche l'amore stesso dell'anima desidera. Ecco, cari amici, mi fermerei qui per quanto riguarda l'inizio della trattazione di questo punto dei novissimi che è il purgatorio. Ci lasciamo con una breve pausa musicale, poi ritorniamo con le vostre domande. A tra poco. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, dottor Manetti. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Ecco, io volevo fare due osservazioni. Leggendo le sacre scritture, diciamo, ho letto che subito dopo la morte tutti gli uomini, nessuno escluso, dovranno comparire davanti al giudizio, davanti al tribunale di Cristo. E una grossa consolazione per me è anche questa, che sempre sulle scritture c'è scritto che il Signore non fa preferenza di persone, non fa preferenza di persone. Riallaccio quello che ho detto a quello che ho sentito dire da Papa Francesco, adesso non mi ricordo più in quale occasione, che magari cioè Gesù dice di pregare per quelli che ci fanno del male e che magari davanti a Dio sono più buoni e più bravi di noi. Ecco, per cui dopo il giudizio magari c'è chi mi ha fatto del male e si trova più vicino a Dio di me. Eccoci, questa è la prima osservazione. E la seconda è riferita a quanto lei ha detto per le preghiere di suffragio per le anime per le anime Sì. purganti, no? Io sempre ho letto che anche le anime purganti possono intercedere per noi vivi presso Dio. Grazie, l'ascolto per radio. Grazie per questo intervento articolato e interessante. Parto dal fondo e lo confermo. La prossima puntata la dedicheremo proprio al rapporto tra anime del purgatorio e preghiera e vedremo proprio come se le anime del purgatorio hanno bisogno delle nostre intercessioni per poter abbreviare la loro pena, la loro attesa del paradiso in cui incontreranno Dio, e al tempo stesso è proprio vero che per quella carità che già le vede unite alla volontà di Dio, intercedono per noi. E poi invece interessante anche la prima osservazione, sicuramente Dio non fa preferenze di persone, nel senso che non guarda sicuramente come si è vestiti o quanto è spesso il portafoglio, non guarda quella che è stata la carriera che si è magari costruita nel corso della vita terrena, ma guarda invece quello che è il cammino di santità che l'uomo ha percorso. Potremmo essere stupiti. A me colpisce sempre pensare che in fondo in paradiso si sono ritrovati San Paolo e Santo Stefano, e Saulo, quando perseguitava i cristiani, era lì a testimone, mentre è stato martirizzato, lapidato Santo Stefano. Ma poi mi viene in mente anche un pensiero di Santa Maria Goretti, che muore chiedendo il perdono per Alessandro, il suo carnefice, dicendo che lo voleva con sé in paradiso, e sappiamo che almeno davanti agli occhi degli uomini ha sicuramente condotto una vita esemplare di pentimento e di penitenza, ecco, quest'uomo. Per cui è proprio vero che solo a Dio spetta il giudizio. Però è anche vero che siamo così tanto, direi sovente, richiamati sull'esistenza dell'inferno, che almeno per la salvezza della nostra anima dovremmo sempre considerare la possibilità, ecco, di essere, magari forse un po' troppo indulgenti, anzitutto con noi stessi, e pensare soprattutto che uno degli inganni con cui il demonio costruisce gli ingressi nel suo regno di perdizione eterna è proprio quella falsa misericordia per cui si pensa che tutte le anime siano comunque salve, quando invece la volontà di Dio è sì di salvezza universale, ma per tutti coloro che si pentono. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, mi chiamo Giovanni e chiamo da Verona. Grazie Benvenuto. intanto, grazie a Dio per il dono che le ha dato e buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Due riflessioni veloci riguardo appunto a quello che diceva della gioia delle anime purganti, perché comunque partecipano in una certa misura alla visione beatifica di Dio, alla visione perfetta di Dio, ma anche l'atrocità della loro distanza da essa, e, cioè, o, dalla visione di Dio. E ricordo, forse probabilmente era stato lei, che sempre alla Radio Maria avevo sentito due aneddoti riguardo a questo, ossia di questa atrocità della distanza di Dio. Una che riguarda San Pio, di un'anima che apparendo gli chiese di pregare per il suo passaggio repentino dal purgatorio al paradiso, e San Pio stanco disse: pregherò domani, e quest'anima e mise un urlo di disperazione proprio per il tempo che Sì. ancora doveva aspettare. E un'altra realtà invece è quello proprio anche del messaggio di un messaggio di Medjugorje, dove Maria dice: la peggiore delle pene della terra non è equiparabile alla minore delle pene del paradiso. Ecco, un approfondimento magari su questi due aneddoti, però che confermano appunto quanto tutto il discorso che lei ha impiantato questa sera è assolutamente confermato anche da questa realtà. Grazie e ascolto per radio. Grazie, grazie caro Giovanni, interventi proprio puntuali e un aiuto, ecco, sicuramente a recuperare questi aneddoti perché poi la vita dei santi conferma proprio l'insegnamento e la dottrina della Chiesa. Quell'aneddoto era riferito a un'anima, di un frate, che era morto, 40 anni prima ed era andato in purgatorio appunto per 40 anni, perché aveva mancato di riverenza dinanzi all'altar maggiore, era dedicato alla pulizia dello stesso in quel convento a San Giovanni Rotondo. E quando Padre Pio disse: nella messa di domattina ti ricorderò, sappiamo che celebrava molto presto, ecco, alle 5 del mattino, quell'anima emise quest'urlo atroce che stava a significare che non importava se erano passati 40 anni, quelle 7-8 ore di attesa facevano la differenza. E Padre Pio disse: avrei potuto dire, per la grazia di Dio, vai subito in paradiso. E a me viene in mente con un altro aneddoto. Nella mia città, Casale Monferrato, la Basilica del Sacro Cuore di Gesù, che è parrocchia gestita dai sacerdoti salesiani, ha il privilegio di essere una basilica minore, quindi è come entrare in San Pietro e c'è il privilegio della indulgenza quotidiana. Quindi si partecipa alla Santa Messa, si riceve l'Eucaristia e basta pregare sei Pater Ave Gloria, così aveva stabilito Pio XII, per poter lucrare l'indulgenza per un'anima. E oltre che per se stessi, chiaro, uno può prenderla, ma può anche offrirla per un'anima. E io ho pensato, ma quante volte mi è capitato di entrare, no, in questa chiesa e dimenticarmi che c'è questo privilegio? E poi da quando ho cominciato a interessarmi ovviamente di escatologia, di paradiso, inferno e purgatorio, questa cosa è capitata sempre meno. Allora potremmo dire che è un po' il termometro della nostra fede. Quanto desidero l'incontro per Dio? Quanto ho amato i miei cari? Tante volte pensiamo che aver amato davvero i nostri cari voglia dire non vedo l'ora di rivederli in paradiso. Ecco, nessuno si offenda, ma vi posso assicurare che già per quel poco che sappiamo dalla scrittura e dalla divina rivelazione, l'amore di Dio è qualcosa di talmente grande che tutti i nostri cari desiderano di più continuare a vedere Dio che non vedere noi stessi. E nessuno sorprenda, perché queste sono le proporzioni corrette nei rapporti tra le creature e col Creatore. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera dottor Manetti, sono Aida, chiamo da Roma. Benvenuta. Senta, io sono diversi anni che ho questa domanda mi torna sempre nella mente. Quando mancò mia madre nel 2003, per caso entrare in una chiesa nel centro di Roma, sinceramente non ricordo nemmeno quale fosse, se Sant'Ignazio o qualcun'altra. Dopo che pregato, trovai come un santino delle anime del purgatorio, no? E c'era scritto: preghiera per l'atto eroico di suffragio le anime del purgatorio. E io, diciamo, ho pregato, ho letto quella preghiera così e ho offerto questa preghiera. E diceva in fondo, poi, quando ho terminato, che però offrendo questa preghiera per quest'anima del purgatorio, poi io non avrei a mia volta, al momento opportuno, potuto usufruire di altre preghiere. E non so, adesso è una cosa che ogni tanto mi torna alla mente, poi io mia madre ovviamente faccio dire delle messe periodicamente, l'ho iscritta alle messe perpetue, però per me sono un po' preoccupata nel senso che quelli che possono essere i miei familiari, mio figlio piuttosto lontano, diciamo, dalla fede, si è allontanato molto in questi anni. E per quanto riguarda gli altri parenti, sono tutti più anziani di me e comunque poco aderenti, diciamo, alla fede. E quindi mi domando io, quando non ci sarò più, chi potrà pregare per me, se potrò io da sola, in precedenza magari iscrivermi alle messe perpetue, cose di questo genere, ecco. È un Grazie. pensiero che un po'. Grazie, grazie Caraida per questa domanda, per questa condivisione. Ti rispondo subito dicendo che condividendo questa tua domanda con tutti gli amici della grande famiglia di Radio Maria, sicuramente fin d'ora puoi contare sulle loro preghiere. E il bello di aver fatto anche questa comunione, questa bella unione di preghiera in tutto questo tempo, incoraggiati proprio dalla Regina della Pace che ha sempre chiesto di formare in parrocchia o nei gruppi questi cenacoli di preghiera, sia per coloro che sono vivi, sia per coloro che aspettano di essere purificati a sufficienza per entrare in paradiso. Però voglio precisare alcune cose. È sicuramente bene, preoccuparsi già di lasciare quelle disposizioni, mi verrebbe da dire, anticipate di trattamento, ma per l'anima, ecco, non per il corpo, che hanno a che fare con la santa morte. È molto bene preoccuparsi già di lasciare a qualcuno le indicazioni e i mezzi perché possano essere celebrate le messe per la propria anima, in particolare le messe gregoriane, ma lo vedremo in una prossima puntata nello specifico tutte le forme di preghiera che si possono dare a un'anima. Dall'altra parte, però, si ricordi che proprio la Chiesa ha questa buona pratica dell'indulgenza plenaria che viene offerta per le anime dei defunti. In tanti santuari e chiese del mondo si insegna ai fedeli che lucrano questa indulgenza a farne parte alle anime più bisognose. Quando si trovano libretti di preghiere, anche oggi in commercio ce ne sono tantissimi dedicati proprio a questa pratica di indulgenze per le anime purganti, si chiede sempre di pregare per le anime più abbandonate. Allora non bisogna assolutamente preoccuparsi, glielo dico proprio di cuore, ben ha fatto offrire tutto quello che poteva per anime bisognose, ma consideri che la Chiesa è veramente corpo mistico di Cristo. I meriti di Cristo per primo ricadono su qualunque anima si appresti a entrare nel suo destino eterno, ma poi anche tutte quelle sante anime che in vita e dopo pregano e intercedono costituiscono un grande tesoro, il tesoro della Chiesa che può essere poi speso per quelle anime che eventualmente non dovessero essere ricordate. Però le dico intanto, a nome mio, ma anche di tutti i nostri cari ascoltatori, che avrà sicuramente il ricordo già fin d'ora nella nostra preghiera, anche per i suoi familiari, ecco, perché possano presto ritrovare la via della fede. Ecco, cari amici, io penso che il tempo a nostra disposizione con questa risposta sia ormai concluso. Voglio ringraziare tutti voi all'ascolto, coloro che hanno potuto intervenire, quelli che mi scrivono anche con domande che stimolano questa trasmissione. A tutti chiedo di pregare, anzitutto per il Santo Padre, per la Chiesa, per i nostri pastori e per il trionfo del cuore immacolato di Maria. Un saluto cordiale a tutti da parte di Diego Manetti e un arrivederci al prossimo appuntamento. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.